Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Easy Pop Estate. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. E buongiorno a voi, ben sintonizzati. Abbiamo aperto quest'oggi il nostro appuntamento con Easy Pop, la musica italiana indipendente al 100%, con praticamente un omaggio al nostro Toto Cutugno, che ci ha, ahimè, lasciato pochi giorni fa. È veramente un fulmine a ciel sereno, e non l'avremmo mai detto, ma del resto, insomma, si sapeva da una parte che, insomma, non stesse troppo bene. Allora, un saluto sicuramente a Toto Cutugno e alle sue canzoni, anche perché il personaggio ha veramente segnato un pezzo storico della nostra musica italiana, se non appunto un decennio, un ventennio sicuramente, e quindi ci sembrava doveroso proprio salutare così Toto Cutugno. Del resto le sue canzoni veramente sono immense, abbiamo scelto quello che lo rappresenta sicuramente. E poi del resto sui nostri social abbiamo anche fatto un profilo per quanto riguarda appunto Toto Cutugno. E allora, buongiorno, ben sintonizzati sui 103 e 100 in modulazione di frequenza. Chi vi parla è Franco Paoletti, puntata numero 33 di domenica 27 agosto 2023. E, regia, buon pomeriggio a lei, il caldo non demorde. Mamma mia, io sono provatissimo. The show must go on, comunque, come si diceva una volta, tributo doveroso a Toto Cutugno, ma adesso Easy Pop va avanti, Paoletti, ai noi. Esattamente, in sottofondo abbiamo anche la canzone vincitrice dell'Euro Song Contest, che correva l'anno, mi sembra, 1992, di questo ne avevamo parlato appunto nel nostro articolo. Grandi canzoni ci ha lasciato, e soprattutto ha scritto per tanti altri autori che magari avevano bisogno di la spinta in più. Toto Cutugno, insomma, ci è riuscito. Allora, bando alle ciance, vediamo di aprire oggi la puntata con invece i nuovi ragazzi che sgomitano nelle musiche indipendenti, appunto varie, sia musica italiana che straniera. Iniziamo con Hermes. Questo ragazzo ci presenta Mare Mosso, e di lui vi parlo fra pochissimo. Non so se bere vino bianco o rosso, nello stomaco c'è il mare mosso, fumo bianco dentro questo posto. Chiedami se è tutto a posto, ti ci vedo nello specchio rotto, che ho preso a pugni per la nostalgia. Ma volevo dirti che sono qui, aspetto te, per dirti tutto in faccia. Sì, la mia giornata c'è, stanotte stai con me, Restiamo qui affinché non resti sulla bocca. Sei la mia luna storia. Però tu dimmi come fai, come fai, come fai, come fai a non restare più. Come fai, come fai, come fai, come fai a non tornare più. Come fai, come fai, come fai, come fai. Siamo ritrosia, dove è la tua follia. Tu dimmi dove sei. Il mio cuore è un puzzle ormai rotto. Sei la foto che ho appena rimosso. Ti prego dimmi dove sei nascosto. Anche se cerco vedo tutto mosso. Sarà colpa del tuo vino rosso. Il tuo profumo mi è rimasto addosso. Ma scopri che hai lasciato un po' di te dentro una mezzaluna. Però tu dimmi come fai, come fai, come fai, come fai a non restare più. Come fai, come fai, come fai, come fai a non tornare più. Come fai, come fai, come fai, come fai. Siamo ritrosia, dove è la tua follia. Tu dimmi dove sei. Quando la notte ti spogli sotto cieli distorti per strapparmi via tutto l'amore che ho. Forse siamo un po' contorti, ma con gli stessi occhi quando andiamo via. Però tu dimmi come fai, come fai, come fai, come fai a non restare più. Come fai, come fai, come fai, come fai a non tornare più. Come fai, come fai, come fai, come fai. Siamo in gelosia, dove è la tua follia. Tu dimmi dove sei. Un bel brano trascinante estivo questo di Hermes, che in realtà si chiama Christian Cottugno, ma tu guarda un po' la sincronicità, è tutto casuale, Paoletti? Beh sì, cioè casuale, noi abbiamo preparato una playlist, ma praticamente appunto Hermes in realtà si chiama proprio così, Christian Cottugno con la O, attenzione. Cantautore classe 2000, nel 2021, dopo diverse esperienze musicali, inizia a lavorare al suo primo EP anticipato dal brano Come Serpenti, che fu inserito nella playlist editoriale di Amazon, e da lì si fa così notare. Poi lo sceglie Radio Rai 2 Indie e trasmette appunto un suo pezzo per praticamente diciamo la promozione del contest Radio Italia e ANAS col brano After. Era la campagna pubblicitaria per la prudenza al volante. Questo spot è andato sia sulle rete Rai che su Mediaset, e poi da lì insomma è un diciamo che un continuo, no? Lavorare e mettersi in gioco e addirittura insomma così farsi notare, tant'è vero che sta lavorando a un album, questo nuovo singolo insomma è stato girato addirittura con in Puglia con appunto il turismo di soggiorno, il contributo insomma l'associazione del appunto di agenzia, non mi veniva il termine agenzia, così di turismo. Bene, non che la Puglia abbia bisogno insomma di pubblicità, però insomma questo è allora il verso giusto, Paoletti, non la sentono. No, mi sentono chiaro e forte. Voglio ricordarvi che siamo qui su 103.100 modulazione di frequenza, Radio Città Fujiko, Easy Pop il programma, insieme a Franco Paoletti che vi parla e il bolognese volante che mi ha appena sgridato. Continuiamo con la terza proposta, ovvero sia Astol, Bella e Strza. Avete... Non so chi tra noi sia più inaffidabile. Se ho perso il volo è solo per parlare ancora con te. Una mi ha sempre preso un po' di più se l'ho fatto in tre. Dillo tu alla tua amica, spero non si offenda, perché con te è una favola continua, da sera alla mattina. Oh, sei una diva da copertina. C'è la giusta atmosfera, lume di candela. Dovrei cercarne una serie, non cambiarne una sera. Mi piace provocarti e lo farò, giocando con dolcezza e crudeltà. Sei solo un'altra bella e stronza che mi vuole portare a letto. Oh yeah. Mi perdo nei tuoi sguardi e penso a te, che ti mordi le labbra. e io ho fatto lo stesso. Ho preso la stanza accanto alla tua con un'altra, e lo so, stai sentendo. Ho parlato di te in un modo un po' duro, senza mancarti di rispetto, perché lo ammetto, lo ammetto. E crudeltà, sei solo un'altra bella e stronza che mi vuole portare a letto. Oh yeah, mi perdo nei tuoi sguardi. Astol, bella e stronza. Beh, un giorno Paoletti lei potrebbe fare una trasmissione di approfondimento sull'uso delle parolacce nella musica, che un tempo non c'erano. Assolutamente no, forse dagli inizi degli anni 80 che ha iniziato questo appunto trend, questo andazzo. Ma poi cosa è successo? Che l'ha sdoganato Marco Masini, e una canzone si intitola proprio così. Allora, bella e stronza, praticamente a presentarcelo è questo Astol, che già ben conosciamo per un featuring del pezzo Romantica e Bugiarda insieme a Biondo e Uragano. Bene, detto questo, questo rapper lo salutiamo qui, direi. Questo è il suo nuovo singolo per l'estate. Andiamo avanti con la prossima proposta musicale, ovvero sia Lisbona ritorna con questo pezzo dal titolo Da ogni tua paura. Lisbona. Ho buttato le tue ciabatte rosa che indossavo per ridere, che adesso guardo fisso da un'ora in una busta nera. Ti bacio solo se non è un addio, se non è un addio, se resti qui stanotte. Ci sarò io a proteggerti dai mostri, da ogni tua paura, da ogni tua paura. Dove sono le tue quattro lenticini che le devo contare? Ma dove sono le tue quattro lenticini che uscivano solo in estate? Ti bacio solo se non è un addio, se non è un addio, se resti qui stanotte. Ci sarò io a proteggerti dai mostri, dammi tua paura. Ogni tua paura, da ogni tua paura, da ogni tua paura, da ogni tua paura, da ogni tua paura, da ogni tua paura, da ogni tua paura, da ogni tua paura. Resisteremo ai colpi per poi ritornare, che poi se resti qui mi piace, che poi se resti qui mi piace, che poi se resti qui mi piace. Lisbona ci propone Ogni tua paura, beh, abbastanza diverso dai soliti ultimi brani che avevamo ascoltato. Paoletti mi piace molto, complimenti alla sua redazione musicale fantomatica, che spero poi di conoscere un giorno, chissà. Lei già la conosce perché Ricky è praticamente un elemento importante per quanto riguarda i suggerimenti, ma poi abbiamo Marzia dall'altra parte per quanto riguarda l'editing, l'immagine e quant'altro, quindi altrettanto importante nelle segnalazioni. Bene, il 23 maggio 2023 Lisbona partecipa al Festival di Cannes come ospite della premiere di Rapito, il nuovo film di Marco Bellocchio, che ovviamente racconta la storia di Edgardo Mortara, il bambino di 7 anni che nel 1958 nel quartiere ebraico di Bologna venne strappato alla sua famiglia dai soldati, appunto. E da questa sorta di colonna sonora devo dire che questo ragazzo ha già bruciato le tappe, perché insomma ha aperto i concerti dei Black Eyed Peas proprio a Ferrara, e poi apre anche i concerti di Morgan, appunto l'ex Blue Vertigo. E poi che c'è da dire? Che appunto ha aperto, anzi è stato ospite per quanto riguarda il tour di Mika, insomma piano piano comincia ad avere un curriculum pesante, poi le sue canzoni sono veramente molto interessanti, un cantautore è uno di quelli da tenere sott'occhio. Bene, a questo punto noi voltiamo pagina e dopo Lisbona arriva Alma, ci presenta Polaroid. Riflesso di me stesso, lo vedi in uno specchio, sperando che dall'altra parte qualcuno mi guardasse, ma poi no. Davvero non lo so. Ho superato muri che sembravano più alti di me, per ogni passo che ho lasciato indietro questa volta partirò. Io giuro lo farò. Senza di me ho trattenuto pugni per rialzarmi dalla polvere, però so che ce la farò. Voglio trovare me stesso senza l'aiuto di chi credeva di darmi coraggio, ma poi non è stato così. Me la caverò lo stesso, anche se poi io non resto. Alma e la sua Polaroid. Beh, bisogna prestare molta attenzione ai nomi perché possono trarre in inganno, vero Paoletti? Assolutamente sì, e poi più strani sono, più colpisce il pubblico, soprattutto quelli dei social che amano insomma le cose più bizzarre. A questo punto Alma è al secolo Aldo Francesco Mazzei, cantautore cosentino, però insomma diciamo si avvicina alla musica e soprattutto insomma gira un po' tutta l'Italia, e quindi diciamo è un cittadino del mondo. Scrive musica da quando era adolescente, piano piano si avvicina alla laurea artistica e poi piano piano insomma incide le sue canzoni. Questo nuovo singolo devo dire che è particolarmente azzeccato e poi insomma è stato preso sotto contratto da una etichetta davvero interessante, e quindi insomma vediamo di accompagnarlo piano piano nel suo percorso artistico, anche perché ci piace molto. E poi Polaroid mi ricorda proprio gli anni 70, gli 80. Ah, non lo dica a me, guardi che ne facevo una vera e propria passione per la Polaroid. Era caro l'oggetto e soprattutto erano care le pellicole. Ma sì, perché spieghiamo, una volta bisognava addirittura avere il rullino, dopodiché bisognava sviluppare questo rullino su carta, e quindi costava, avere una fotografia costava tantissimo, mica come oggi, eh. Sì, lei parla delle foto, diciamo così, con i classici pellicole, invece la Polaroid, la novità stravolgente fu che in neanche un minuto tu vedevi la foto. perché Rulino dovevi portarlo in studio fotografico a sviluppare nella famosa camera oscura, invece la Polaroid aveva una camera oscura interna, tu scattavi, staccavi il pezzo della pellicola, aspettavi, tiravi via una pellicola e vedevi la foto subito, immediatamente, a colori o in bianco e nero. Un po' come quelle cabine telefoniche, no, tipo le cabine telefoniche, no, quelle insomma dove si fa cabine delle foto, dove ultimamente ho fatto una foto orribile, devo dire, quindi andate sempre, mi raccomando, nei negozi a fare insomma il tutto. Bene, bene, bene, bene, quindi dopo Alma abbiamo un graditissimo ritorno bolognese, stiamo parlando di Bracco di Graci, che è ritornato con un album a dir poco splendido, una manciata di canzoni davvero incredibili, ci presenta Per la gente il suo nuovo singolo Bracco di Graci. Preparo il caffè, il giorno si affaccia e vuole me, vuole me, e passano gli anni, deludono gli eroi. Non c'è mai stato nessuno che abbia pensato a noi. Noi semplici, noi semplici che lavoriamo qua, che a volte ridono e a volte piangono, ma sempre sai con dignità. Cambiate sempre tutto purché non cambi niente, e fate finta di voler bene alla gente, alla gente, alla gente. Mi metto le scarpe, bevo il caffè, il giorno si alza e ha già me, ha già me. Mi butto nel traffico e quanti ce n'è per far girare la giostra. Bracco di Graci con il suo nuovo singolo Fresco Fresco per la gente. E in effetti da poco è disponibile anche l'album di cui ci ha parlato all'interno della nostra intervista esclusiva, appena uscito il primo estratto. Che dire, che complimenti, perché ogni sua canzone è un piccolo gioiellino, ed è ritornato alla musica italiana con appunto questo album dopo diversi anni di silenzio. Ma per saperne di più, ovviamente sui nostri social c'è sempre l'intervista a cui voi potete accedere. Sì, come fare? Andate su www.radiocittafujiko.it e nella casellina cerca scrivete le interviste di Easy Pop. Usciranno tutte, potete scegliere nel caso quella di Bracco di Graci. E a questo punto, velocemente, per chiudere la prima parte di Easy Pop, abbiamo Malcolm Raffaello, creatore, ci presenta Ogni tua lacrima. Se molto tempo che noi stiamo insieme, una ragione c'è, ci si vuol bene. Io senza te, l'ammetto, non so stare. Soltanto a te io posso raccontare i miei silenzi e le mie notti amare. Partecipi senza mai giudicare, sei speciale. Quando il mio cuore è muto, tu lo fai parlare. Mi appaga quel tuo sguardo dolce e fragile, e se accadrà che un giorno ti vedrò piangere, asciugherò ogni tua lacrima, difenderò il futuro per non farci mai del male, spalancherò mai spezzato. Basta se stesso, questo è il segreto. Ci amiamo ancora, molto più di allora. Soltanto a te io posso raccontare i miei silenzi e le mie notti amare. E se accadrà che un giorno ti vedrò piangere, asciugherò ogni tua lacrima, difenderò il futuro per non farci mai del male, spalancherò la mia anima e le tue paure brilleranno come stelle. È Malcolm Raffaello, creatore questa ballata davvero intensa. Pensate un po', suo nonno è il coautore di Can't Help Falling in Love di Elvis Presley, e quindi qualcosa gli avrà lasciato questo nonno, no? Appunto a Malcolm. Lui nasce a Palermo il 29 aprile del 77, però cresce a Milano e si intende e si butta nel mondo musicale fino a incidere un EP, Vivere il Destino, e poi ha registrato nel 2022 in una così sessione live un album. A questo punto riparte con una nuova immagine, un nuovo stile. Ogni tua lacrima è proprio questo primo singolo in attesa del nuovo album. Detto ciò, regia, cosa succede? Piccolo break pubblicitario, vero? E allora non andate via, rimanete con noi perché vi rinfrescheremo subito con altra buona musica. $10 was basta che mi accendi, sintonizzati con me, basta che mi cerchi, io sarò vicino a te. Non trovi la radio giusta per te? Sintonizzati sui 103.10 in FM e la troverai. Radio Città Fujiko. Cosa aspetti? Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Easy Pop Estate. Buon pomeriggio a voi, regia, non mi sentivo in cuffia, però insomma abbiamo risolto. Buon pomeriggio a voi, dicevo, ben ritrovati in quella che è la seconda parte di Easy Pop insieme a Franco Paoletti, che vi sta parlando, è il Bolognese Volante che spinge cursori e quant'altro, sente il caldo, penso, quest'oggi. Allora, la seconda parte di oggi, domenica 27 agosto 2023, oggi proprio caldo, devo dirlo. Allora, vediamo di rinfrescare anche la seconda parte con tanta buona musica e tante novità musicali, soprattutto per voi, musiche che sono ovviamente la stragrande maggioranza indipendenti. Dopo un lungo periodo di pausa, il talentuoso cantante Big F è finalmente tornato alla musica con una nuova energia travolgente e tante cose da dire. Quindi, per aprire questa seconda parte, arriva Big F, La Testa Gira. E 30 appena aperto gli occhi, sono ancora rossi, ho ricordi mossi, ragazzi bro, sono ancora scossi. Nella mia testa sciolgo grovigli, tieni basso il tono, meglio se bisbigli. Anzi voglio solo che non parli, mi sento dentro un reparti, ma mamma scusa faccio tardi, dai non aspettarmi, ti prego di non chiamarmi. Eppure volevo la calma per due, ma è raro trovar la paura. A noi in mano un'arma puntata contro noi due, hey. Tu vieni a correre nei miei pensieri, voglio solo enjoy, non pensare a ieri. Voglio cinque fiori per farci un bouquet, con gli occhi chiusi, steso su un parquet. La testa gira, la testa gira qua, la testa gira, la testa mi gira, vola. La testa solo in un pallone, fanculo la vita sempre in un hangover. Ho perso cognizione di giorni e di ore, oggi dico basta, c'ho le fitte al cuore. Provo solo a non pensarci, ma la coscienza ti recalci, cerca spesso di parlarmi, chiudo gli occhi e cerco di calmarmi. Tu vieni a correre nei miei pensieri, voglio solo enjoy, non pensare a ieri. Voglio cinque fiori per farci un bouquet, con gli occhi chiusi, steso su un parquet. La testa gira fra, la testa gira qua, la testa gira, la testa mi gira, vuoi la testa gira fra, la testa gira qua, la testa gira, la testa gira. Molto bello, mi piace molto questo brano di Big F, un rapper, La testa gira, di cui adesso Paoletti ci parlerà. La testa gira. No, mi piace molto anche a me. Big F, all'anagrafe Fabio Sgambatto, è un rapper di Visciano in provincia di Napoli. Parte nel 2017 una sua carriera con, si fa conoscere appunto nelle scene rap nazionale, e collabora con Tritolo e poi con Clementino, diversi EP al suo attivo, e poi c'è un cambio radicale, se non sbaglio intorno al 2020. Big F sceglie di cambiare decisamente il suo mood, canta soprattutto in italiano, non più in così in napoletano, oppure con quei gerghi, no? Che si usa fare. E poi a conclusione di questo ciclo ci sono diversi singoli, un EP interessante, e c'è anche un featuring a Elfo. Io non sapevo ci fosse un rapper all'Elfo, lei sì, già mi piace solo come nome. Salutiamo. A questo punto invece, dopo Big F, abbiamo raccontato un po' la sua storia, viene a trovarci un personaggio che abbiamo imparato ad amare piano piano nel tempo. Stiamo parlando di Antonino, che ritorna alla musica, l'abbiamo visto qualche giorno fa, ci presenta All In. Non ci perdi niente e tutto torna sotto forma di un miglior presente. Ho imparato a scommettere, ho imparato ad affrettare, che quando arriva un'occasione non la fai scappare. E sembra facile da dire, ma poi c'è da fare. Ho imparato ad affrettare e abbandonarmi a visioni di squarci, di momenti che ti finiranno, di ricordi che accompagneranno i nostri anni. Basta solo fidarsi, trascinante, devo dire, anche questo brano di Antonino Hall In. Adesso poi Letti ci dà alcune specifiche tecniche. No, c'è poco da dire, specifiche tecniche per quanto riguarda Antonino, che già ben conoscete come un amico, perché per chi guardava la De Filippi e il suo Amici sicuramente insomma conoscerà bene questo cantautore, che ha degli alti e dei bassi, poi ha avuto una così sua evoluzione soprattutto all'esterno dell'Italia, ha continuato a fare musica, è ritornato in Italia e poi sdoganato anche così, ha vinto il premio della critica, premio Mio Martino, come migliore interprete. E poi che cosa successo? Che l'abbiamo vista tale quale, seguitissimo programma di Carlo Conti, dove ha vinto, stravinto, e è uscito finalmente il suo nuovo album, che c'è da dire che praticamente è uscito questo nuovo singolo che è stato presentato in anteprima al Pride di Milano. All In, appunto, è il suo nuovo singolo, e che c'è da dire che c'è un album che vi attende ed è veramente bellissimo per questa voce particolare, no? A questa grana che è comunque duttile e passa dagli alti ai bassi, ricorda un po' Marco Masini, ma non è Marco Masini. Beh, insomma, è un personaggio molto umile innanzitutto, va così premiato soprattutto perché insomma c'è un gran lavoro dietro questo personaggio. E dopo aver salutato anche Antonino, che poi abbiamo visto, se non sbaglio, proprio qui a Bologna ha presentato qualcosa inerente a dei cori, non so, c'era una manifestazione, non so dirvi di più, però insomma noi proseguiamo la nostra carrellata musicale con Calmo. Questo rapper ci presenta Come ti pare. Giuro non è insicurezza, ma pura curiosità. Chissà cosa dici se chiedono col tipo come ti va. La TV spenta da anni, anche tu spenta da anni, e la che te l'ha chiesto di sopportarmi tra alti e bassi, montagne russe. Brilliamo su un minuto all'ora come la Torre Eiffel, il tempo di un caffè. Tu fai come ti pare, si fa come ti pare. Io me ne vado a mare, se vuoi venire bene, altrimenti sai non me ne frega, sì, è già ok così. Tu fai come ti pare, sì, fai come ti pare. Perché una buona parte del volersi bene, abbandonare un po' le scene, accorgersi che mi manchi, sì. Punta, quinta, le montagne sono altre, mica quelle che circondano la casa tua. Ma su in cima, le tue le spoglie in fila, sono uguali alle tue ciglia, sbagliati solo per me. In bilico, fra i lividi e il brivido di viversi, noi diversi, eversivi, come i divi, recidivi. Nell'attimo, un brindisi, su un attico, a brindisi, è facile dirti di, ma è inutile, fin tanto che brilliamo. Di un caffè. Tu fai come ti pare, si fai come ti pare. Io me ne vado a mare, se vuoi venire bene, altrimenti sai non me ne frega, sì, è già ok così. Tu fai come ti pare, si fai come ti pare. Perché una buona parte del volersi bene abbandona. Calmo con la sua Come ti pare. Paoletti, cosa ci dice di lui? Bisogna stare molto molto calmi. Allora, c'è da dire che Calmo Luigi Ferrara ha 10 anni, è già polistrumentista, e il suo talento d'autore produce diverse cose sia per sé che per altri cantautori. E c'è da dire che insomma lui ha pubblicato diversi singoli, è un nome, tra l'altro attualmente fa parte della live band di Clementino, e poi che c'è da dire? Che questo è il suo nuovo singolo, noi l'abbiamo visto un po' in giro, in diverse trasmissioni Rai e quant'altro, e a questo punto io direi di cambiare argomento e passiamo alla prossima selezione musicale. Viene a trovarci Alessandro Spina che ci presenta Se si vota più. E chi vota più? E chi c'entra più? E chi c'entra più? Vivere in democrazia è diventata pura fantasia. Si parla del nuovo che avanza, ma il vecchio rimane in sostanza. Stato d'emergenza perenne, così nessuno addrizza le antenne. Parlano di election day, per le politiche chi vota più, vota più, vota più. Se si vota più, e chi c'entra più, e chi c'entra più. Tante alternative non ci stanno più. Di fatto non siamo coesi, a modo proprio si fa resistenza. Arriva anche l'una tanto, non sai che facci che mangiarci un magno. Il PIL sta davvero crescendo, si riferisce solo al Parlamento. Si allargano le pezze al culo, la fiducia non si dà a nessuno. Se si vota più, se si vota più. Se si vota più, se si vota più, più. E chi ci andrà più, e chi ci andrà più. Tante alternative non ci stanno più, più, più. Se si vota più, se si vota più. Se si vota più, se si vota più, più. E chi ci andrà più, e chi ci andrà più. Tante alternative non ci stanno più. Grande oscenità, udir le fonti di informazione. Alla fine l'uno vale l'altro. Non sono diversi, l'uno vale l'altro. Gli amici degli amici sono i più felici. Alessandro Spina, Se si vota più, una canzone che non giudico, ma sicuramente dall'impegno sociale e politico. Ecco, una cosa che si sente poco di questi tempi, perché ci sono tutte canzoni che parlano di sogni, d'amore, cose così, però l'impegno politico, quello dei Gregori, eccetera, eccetera, non c'è più. No, direi che non c'è più, in effetti questa è una sorta di Franco Battiato, no? 2.0, diciamo così. E lui è un personaggio che abbiamo imparato a conoscere come alternativo proprio nel mondo musicale, perché è un sociologo che praticamente puntualizza e poi diciamo bastona un po' lo star system. Si chiama appunto, come dicevo, Alessandro Spina, Se si vota più, questo è il suo nuovo singolo, e segue già gli altri tanti singoli interessanti, Meccanismi virtuali, e poi Umili umiliati, e ancora Incredibili sterpaglie, dove appunto c'è il suo jacuzzi alla tutta la società italiana soprattutto, ma comunque insomma un po' così un jacuzzi a che cosa succede nel mondo. Bene, detto ciò, regia, cambiamo completamente registro, viene a trovarci, come direbbe Paoletti, un amico insieme ad una sua amica, ce lo annuncia Paoletti. Ma sì, è ritornata la musica italiana, sia lui che lei, una coppia, quindi Marco Guazzone featuring Chiara Gagliazzo, questa è la loro scelta dell'estate, si intitola Salsedine. Non una lacrima, un sussulto, uno stupido resta. Sembrava tutto fatto per portarmi via dai guai. E giuro ci ho messo una vita per aprirmi. Ed ogni tanto tu ritorni come un déjà vu. Le notti in bianco che ho passato per capirti ora. Che ho una casa piena di vorrei. E quelle notti passate a dirci che se tra vent'anni ti ricorderai. Di sguardi spenti e distratti tra di noi. Quanto tempo fa eravamo due ombre felici per la città. Quanto porta, il tuo silenzio chi se lo scorda, tu che mi disegni passaggi nascosti, sei luce dentro agli occhi, con questo cielo che ci buca la faccia, ti prego resta, resta fino all'alba, sei salse di me addosso, nuotami attraverso, non torniamo a casa. Potuto incontrare in un altro tempo, ma con le stesse parole chiuse in bocca e con la stessa giacca, seduti all'angolo di un bar con Delta al posto della birra. Quanto tempo fa graffiava, graffiava, graffiava la sabbia rosa nella maglietta, il tuo silenzio chi se lo scorda, dentro agli occhi, con questo cielo che ci buca la faccia, ti prego resta, resta fino all'alba, sei salse di me addosso, votami attraverso, non torniamo a casa. Qualcuno si è tuffato nell'acqua, le auto che corrono spostano l'aria, se non mi cerchi qui la notte si cela, si cela, la sabbia rosa maglietta, il tuo silenzio. Si sente quanto lavoro c'è dietro a un brano come questo di Marco Guazzone e Chiara Galeazzo, vero Paoletti? Eh beh sì, è la voce solista degli Stag, qui insomma incrocia la voce invece di Chiara, che ben conosciamo, Chiara Galeazzo, che ritorna alla musica per l'estate appunto, ovvero sia questa Salsedine. Marco Guazzone lo conosciamo come cantautore e musicista romano, soprattutto insomma artista completo, perché suona anche musiche da film e non solo, perché insomma la sua campagna pubblicitaria di Bulgari per esempio l'ha firmata lui. E Chiara Galeazzo, beh insomma ormai è una certezza della musica italiana che ben conosciamo, insieme per l'estate con questo singolo molto delicato, molto bello, a cui è unito un cortometraggio che vi invito ad andare a vedere, insomma lo trovate su internet. Detto ciò, regia, che cosa abbiamo ancora? Allora, abbiamo una cover adesso, di cui potremmo parlare parecchio, ma non lo faremo. Ce la propone JXA, quindi una specie di JAX, un variato. Il titolo ce lo dice lei, Paoletti. Solleado. E ho detto tutto. E allora vi parlo di questo pezzo che si intitola Solleado, celebre canzone incisa nel 74 ed era il brano di debutto del gruppo italiano Daniel Santa Cruz Ensemble e faceva parte dell'album appunto omonimo. L'autore del brano è Ciro D'Amico, ovvero sia Zakar, membro del gruppo stesso, che rielaborò insieme a Dario Baldambembo un pezzo da lui scritto nel 72 intitolato Le Rose Blu. Fu lanciata nella trasmissione Alto Gradimento e partecipò anche al Festival Bar. Il disco di debutto per i Daniel Santa Cruz rappresentò il singolo appunto di debutto e vendette, pensate, 5 milioni di copie in tutto il mondo. Il brano si caratterizza per l'assenza di un testo. E che cosa succedeva nel 73? Un anno prima nasceva Gianfranco Avallone, in arte JXA, che a soli 15 mesi intitolava Soleado il famoso ritornello. Si intonava, volevo dire. Che c'è da dire? Questi sono i traumi, secondo me, infantili che uno poi si porta. Non lo so, però noi di questa cosa ne abbiamo fatto un disco vintage, che adesso andiamo a proporvi. Disco vintage, disco vintage, disco vintage. Beh, insomma, correva l'anno 1974, pensi che andavo ancora alle scuole medie, tutto dire, epoche giurassiche, e sottolineerei velocemente la grande differenza nella velocità della musica fra il brano proposto, rifatto nella cover da J-Ax, e il brano originale dei Daniel Santa Cruz Ensemble. Questo proprio sembra lentissimo rispetto alla musica che ci viene proposta oggi. Sì, sì, è proprio così, però insomma, diciamo, il contenuto non cambiava, e poi sembra che negli anni 70 si avesse più tempo e più gusto per assaporare la vita. Comunque era il 1974, nel 73 appunto nasceva questo JXA, che praticamente ha assaporato questi ritmi, che dire, che anch'io ero molto piccola, me la ricordo comunque molto bene questa selezione musicale. Detto ciò, Disco Vintage lo salutiamo qui, vi ringrazio per aver seguito la 33esima puntata di domenica 27 agosto 2023, vi lasciamo al sole, appunto, potete andare a questo punto in spiaggia a rinfrescarvi. E vi lasciamo al resto della programmazione di Radio Città Fujiko sui 103.10. Noi vi diamo appuntamento a domenica prossima. Easy Pop, come vedete, non vi abbandona nemmeno durante l'estate. Vi ricordiamo che per riascoltare la puntata o le interviste o il servizio che ha scritto Franco Paoletti, dedicato come tributo a Toto Cotugno, potete trovare tutto su www.radiocittafujiko.it nella cartella Musica, Playlist o News. Buona domenica, buona settimana dal Bolognese Volante. E da Franco Paoletti, bye bye! Bye bye!